Allora, abbiamo adesso in collegamento telefonico la dottoressa Barbara Mazzolai. Buongiorno dottoressa, grazie per aver accettato la nostra Buongiorno, intervista. buongiorno. grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, vai tu? vai pure, ti lascio l'onere. Il 19 gennaio alle 18 presso il Circolo dei Lettori, lei presenterà al pubblico il plantoide. Che cos'è Sì. cos'è il plantoide, principalmente? Proprio diretta. Domanda semplice all'inizio. Certo. Innanzitutto è un progetto di ricerca e sviluppo finanziato dalla Commissione europea nell'ambito della robotica bioispirata, quindi è questa nuova area, disciplina della robotica che prende ispirazione dalla natura per fare nuova tecnologia e in particolare il plantoide si ispira al mondo vegetale per la prima volta a livello internazionale e nello specifico alle radici delle piante. Per fare un robot che si muove nel suolo, analogamente a, diciamo, alla controparte naturale, per la ricerca di sostanze nutritizie, di inquinanti, no? Quindi prevalentemente per applicazioni ambientali, ma non solo. Questa è un po' l'idea. Quindi di carpire, diciamo, di estrarre i principi di base dei movimenti, delle capacità sensoriali delle radici e di tradurle, ovviamente non copiando il modello biologico, ma semplificando, in una soluzione robotica, quindi in un robot che cresce per aggiunta di materiale e è in grado di seguire degli stimoli sensoriali, ad esempio acqua, temperatura, gravità, sostanze chimiche e così via. Questa è l'idea di base, diciamo, del progetto. Interessante. Come vi è venuta questa idea di ispirarsi, diciamo, alle radici per creare questa macchina di ricerca? Ma diciamo che io sono una biologa di formazione, quindi per me la biorobotica rappresenta esattamente l'unione tra la biologia e la tecnologia e quindi porto delle idee che partono dal mondo della natura, anche non soltanto nel mondo vegetale, ma anche naturale, altre, per esempio, esseri viventi come gli animali, e per risolvere dei problemi pratici. Quindi uno dei problemi che ho affrontato anche nel passato è proprio quello del monitoraggio ambientale. Quindi quando pensiamo, per esempio, all'analisi del suolo, le piante, in particolare il sistema radicale, è l'eccellenza in questo. Non esistono animali così capaci di esplorazione come lo fanno in maniera capillare le piante e le radici. E quindi l'idea di prendere ispirazione appunto da loro per creare una nuova tecnologia, in particolare un nuovo robot. Questa è stata, diciamo, l'unione, come dicevo, tra il mondo natura e la tecnologia. Era l'occasione perfetta, diciamo, per questo Esatto, connubio. esatto. Sì, cercando anche di risolvere dei problemi concreti, anche se ovviamente l'applicazione in questo caso è un pochino più a lungo termine perché partiamo proprio dalla scienza di base, però abbiamo sempre in mente dei problemi pratici che vogliamo risolvere, no? Quindi in questo caso era proprio il monitoraggio dell'ambiente, quindi risolvere delle soluzioni per la qualità dell'uomo e della vita. Sì, diciamo che il resto in fatto di applicazioni poi viene un po' da sé man mano che si Sì, prosegue. Mi esatto, pare che è di vero. norma funzioni così. Esattamente, proprio quello, perché magari partiamo con un'idea, però poi sviluppando la tecnologia ci accorgiamo che in realtà è un dimostratore e che può essere utilizzato per veramente anche campi apparentemente molto lontani. Ad esempio, collaborando con dei medici, loro hanno suggerito di eventualmente utilizzare queste tecnologie anche in campo medico per sviluppare dei nuovi endoscopi, no? Quindi anche soluzioni che apparentemente possono sembrare molto lontane, che invece poi risolvendo dei problemi pratici possono essere invece di una soluzione innovativa, no? Quindi è un dimostratore di tecnologia sostanzialmente. Certo, beh, visto che ormai mi è salita la curiosità, mi viene da chiedere, ci sono altri progetti paralleli o qualcos'altro, diciamo, del genere al momento su cui state lavorando, oppure Qualche state idea in cantiere? concentrando, o state concentrando le Allora, vostre forze su questo? in questo momento, diciamo, siamo, per quanto riguarda la parte di robotica bioispirata, siamo concentrati molto sul mondo vegetale, non soltanto le radici, ma stiamo studiando anche i materiali delle piante per realizzare nuovi attuatori, sensori, materiali che sono ispirati sempre a questo mondo che è relativamente, come dicevo, nuovo nel campo dell'ingegneria, in particolare della robotica. Abbiamo però anche progetti più legati allo studio, per esempio di animali invertebrati, come ad esempio il polpo, quindi sviluppiamo delle ventose artificiali ispirate proprio a quelle di questo mollusco, che sono eccezionali, e quindi ancora una volta l'idea è di partire dal modello animale in questo caso e poi sviluppare delle soluzioni tecnologiche che possono essere utilizzate in campi più disparati, perché anche la parte delle ventose ha molteplici applicazioni in campo industriale, domestico, robotico, no? Quindi ci piace, perché in questo modo il nostro gruppo, tra l'altro, è formato da persone con curricula totalmente diverse, quindi anche molto affascinante, perché affrontiamo lo stesso problema da molteplici punti diversi, no? Quindi è anche molto formativo. Certo. Beh, è molto interessante. Comunque. Sì, mi ha aperto un mondo, mi sono appassionato in questo momento di nanotecnologie. Esatto, non saremo più gli stessi dopo questa trasmissione. No dai, è un concetto bellissimo. Mi piace trovare magari. Sì, no, è un concetto veramente bello, appunto. Ispirarsi alla natura, nella tecnologia per aiutare la natura, cioè è un concetto che mi sta affascinando tantissimo, la ringrazio di questo. Abbiamo qui Giorgio commosso. Grazie a voi. Esatto. Grazie a voi. Allora, la ringraziamo ancora per averci rilasciato questa intervista e l'auguriamo buona fortuna per il progetto e un buon fine grazie. Settimana. Grazie anche a voi, grazie a tutti, arrivederci.